282. Storni in stufa. Gli storni, essendo uccelli di carne ordinaria e dura, hanno bisogno del seguente trattamento per renderli mangiabili. Per numero 6 storni fate un battuto tritato fine con un quarto di una grossa cipolla e grammi 30 di grasso di prosciutto. Mettetelo al fuoco con grammi 20 di burro, 3 o 4 striscioline di prosciutto grasso e magro e 2 coccole di ginepro. Collocateci sopra gli storni senza sventrarli e guarniti con foglie di salvia. Conditeli con sale e pepe. Quando avranno tirato il sapore del battuto, voltandoli spesso, e che la cipolla sarà ben colorita, bagnateli con un poco di vino bianco asciutto e poi versatecene tanto che fra la prima e la seconda volta sia 3 decilitri. Mancandovi il vino bianco, supplite con 2 decilitri d'acqua e 1 di marsala. Coprite la cazzaruola con un foglio di carta a 4 doppi, tenuto fermo da un coperchio pesante, e fate bollire a fuoco dolce fino a cottura completa. Levateli col loro sugo e serviteli.